Benvenuti tutti quanti, amici, vicini, lontani, 21 e 37 minuti, siete a Ethno Chic. Benvenuto Vladimiro. Ciao Babe, buonasera. Abbiamo un ospite anche stasera, tra l'altro questa sera esatto. Me la cavo meglio, perché è musica che conosco un po' anch'io, musica del Mali. Eh sì, esatto, ma perché te la cavi meglio? Ma perché una quindicina d'anni fa, un po' di più, fine 90, inizio 2000, io ascoltavo i Blur, li seguivo abbastanza, a un certo punto ebbero uno iato e Damon Albarn si narrava che, poi è vero, andò in Mali per staccare, tra virgolette, e grazie a lui moltissimi musicisti cominciò a collaborare con musicisti del Mali e le riviste musicali che si occupavano di rock normalmente cominciarono a parlare di musica del Mali, che per me era qualcosa di totalmente sconosciuto. Sì, esatto, e poi c'è stato, come dire, una grande riscoperta della musica del Mali, che poi insomma ha riguardato non solo appunto questi progetti in cui era coinvolto Damon Albarn, però per esempio mi ricordo sempre a inizio anni 2000 è uscito quel film di Martin Scorsese sul blues, che appunto era Dal Mali al Mississippi, e tutta l'ultima parte era appunto nel Mali, e noi invece di andare in Mali abbiamo il Mali qui. Il Mali è venuto qua. E quindi diciamo buonasera, ben arrivato, ben trovati con Khalifa Kone, che ci ascolta di là dal vetro. Dall'altra parte del vetro. Benvenuto, benvenuto. Grazie. Benvenuto, ormai Khalifa sei bolognese. Un po' sì, direi sì. Oh, per fortuna, così non dobbiamo tradurre e soprattutto non fare pessime figure col nostro ottimo francese, dico bene? Sì, esatto, non abbiamo bisogno comunque di parlare, insomma, parliamo. E il primo brano che abbiamo sentito era proprio di questo lavoro, che è interessante, e infatti facciamo anche, sorridavamo perché, insomma, oltre a Khalifa in questo disco che si chiama Luna, giusto? Che è uscito? Sì, sì, 2014. E in questo disco abbiamo molte, cioè ci sono molte conoscenze, persone che a me e a Babel sono molto familiari, come appunto Guglielmo Pagnozzi, Salvatore Lauriola, Gaetano Alfonsi e anche Davide Angelica, che sono insomma musicisti ben conosciuti qui a Bologna, per noi che ormai siamo anche noi bolognesi d'adozione. Ormai insomma, veterani. Veterani insomma della scena musicale bolognese. E raccontaci qualcosa di questo disco, insomma, o comunque questa collaborazione. L'altra volta, mercoledì scorso, c'era Nasser e gli abbiamo chiesto, lui è arrivato è qui a Bologna da poco, e quindi abbiamo chiesto insomma com'è il rapporto con la scena bolognese. Anche lui, pur essendo qui solo da 3 mesi, era entusiasta, insomma, quindi comunque l'ambiente per fortuna rimane fertile. E raccontaci invece un po' la tua esperienza. Beh, niente, buonasera a tutti. E io mi chiamo Khalifa Kone del Mali. E niente, sono arrivato a Bologna qua, ho iniziato a lavorare con Guglielmo Pagnozzi, che è un gruppo che si chiama Voodoo Sinclair, e grazie a lui che abbiamo suonato tante volte insieme, cioè alla fine ho detto un giorno, guarda Guglielmo, io ho l'idea, voglio fare un progetto più grande, un gruppo più grosso, più gente, no? Sì, anche perché comunque quello è un progetto specifico legato poi all'Afrobeat, quindi alla musica di Fela Kuti, quindi insomma esatto. Un particolare genere di una particolare paese, che poi insomma la Nigeria. Insomma. Esatto, poi mi ha detto lui, guarda, se vuoi c'è i miei ragazzi, sono bravi, e te li do questi e vedi cosa devi fare con loro sono bravi. E abbiamo fatto 6 mesi di prova, tutte la mattina, e alla fine il risultato è stato questo. Ma sono, si sente anche in questo, provare serve, diciamo. In questo disco comunque voi avete lavorato su musiche tradizionali o sono esatto. state cose composte da, sono composizioni tue? Sì, esatto, tutto fatto io, poi il basso, batteria, chitarra, poi cosa deve fare ognuno, poi cioè l'idea abbiamo fatto tutti insieme, però i brani lo faccio io. E tu scegliendo, cioè componendo questi brani, rifacendoti alla musica tradizionale. Esatto, la base viene dalla musica tradizionale. Che tipo di linguaggio hai scelto? Cioè nel senso che appunto, cioè Khalifa, la cosa strana, nel senso che in realtà poi la domanda principale che ho pensato di farti sì. è come mai la musica del Mali, fra tutte le musiche anche dell'Africa occidentale, che pure insomma ha un patrimonio musicale molto, molto ricco e anche comunque va al di fuori, insomma, dei confini locali oppure delle tradizioni. Come mai proprio il Mali ha acquisito, almeno negli ultimi 20 anni, questa centralità, questa importanza? È così conosciuto? Ci sono dei musicisti conosciuti a livello internazionale che fanno concerti in tutto il mondo. Qual è stata la spinta, la mossa che ha portato il fatto che, insomma, la musica proprio del Mali è così conosciuta? A parte Damon Albarn. A parte, sì, perché appunto tutto questo è successo a parte Damon Albarn, insomma. Anche Damon Albarn c'entra, però insomma è comunque qualcosa che è partito un po' anche da lì. Sì, no, la musica maliana è molto aperto, che cioè i musicisti maliani possono suonare tante musiche diverse che le altre persone, tipo Baba Sissoko, che suonava che il blues, esatto. Sono altri che gli americani, tipo Oumou Sangaré, sono altri che gli americani, sono tutte quelle persone importanti di Mali, certo. Che è sempre pronti per, cioè, lavorare con le altre persone anche. Cioè, non facciamo solo la musica tradizionale solo per noi, anche... Chiaro. La musica tradizionale, noi siamo sempre pronti, cioè le mette anche la musica europea, cioè mixare tutti e due insieme. Sì. E la cosa più ricca, secondo me, è questo, la cosa più bella. E quindi queste musiche che hai scelto tu erano particolare repertorio fra tutta la musica tradizionale? O sì, hai la base è tutto viene la tradizionale, poi dopo l'idea mia è, cioè, giungere l'idea mia, poi... Comunque la base è tradizionale, capito? Mm-hmm. Poi dopo le gira io, la mia maniera di suonare è così, c'è qualcosa diverso dalla tradizione, però la base viene sempre là, l'idea viene sempre lì. Ascolta, io adesso metterei un altro brano di questo disco, avevamo detto... Volentieri. Funky, no? Vai. Hai qualcosa da dire su questo brano in particolare? Funky è un brano, è tradizionale, però io l'ho suonato più... cioè, come diciamo, suonato, cioè, cerca di suonare più tipo hip hop, no? E anche funky, cioè, dipende come uno ascolta la musica, no? Può essere funky, può essere blues per qualcuno, può essere anche reggae, si può suonare, cioè un po'... Sì, quella un po', questa è stata un po' la tua chiave di lettura. Esatto, insomma, sì, quindi sì. Hai voluto dare in qualche modo un'indicazione. Andiamo a sentirlo. Sì. Thank you. Califa. Sì. Ti volevo chiedere, tu stasera hai portato quello, lo strumento che principale che suoni, giusto? Sì. E che mi dicevi che non è una cora, ma si chiama? Si chiama Kamale Goni. E che differenza c'è tra questo strumento e la cora? Lo puoi descrivere per i nostri radioascoltatori che non ti possono vedere? Sì. Allora, la differenza è Kamale Goni e cora. Kamale Goni è una cosa che è pentatonica. È sempre accordato, sì, pentatonica. Sì, certo, sulla scala con 5 suoni. Esatto. Che tradizionalmente è 6 corde come la chitarra. Ok. Poi oggi dipende chi ha la capacità, non è Kamale Goni, chi posso suonare 6, 7, 8 corde, 9, 10, 12, 15, lì dipende dalla persona, dalla capacità. Certo. Ecco, qua io ce l'ho 15. E quindi hai molti più suoni, insomma, sì. tutta la gamma di suoni, come insomma, esatto, sì. Cora, la base, le corde di cora è 21 corde, la base. È sempre accordato diatonica. Sì. Che diciamo tipo pianoforte, sì, sì. Questa roba qua, che c'è di più possibilità, cioè di fare tante cose. Chiaro. Questa è la differenza. E in più il tuo strumento, ho notato prima, è elettrificato. Questo sì. Perché è uno strumento comunque da concerto. Insomma, sì, esatto, sì. Perché vai in palco, cioè sono sempre il palco che questo qua. E tipo la chitarra africana, ecco, poco parole. Ecco. Esatto, e tu sei giovane, ma sono tantissimi anni che suoni anche con dei personaggi di un certo calibro, giusto? Sì, sì, sì, sempre, sì, sì, sempre. Hai suonato anche con Oumou Sangaré, dicevi, sì, prima. Sì, sono andato con Oumou Sangaré, Salif Keita, Baba Sissoko, Ablaye Diabaté, Modibo Diabaté, Geneva Sec, tanti. Ah, li conosco anch'io, quindi. Beh, certo, tutta gente famosa, non so se i nostri... Baba Sissoko, sono tutti nomi che, insomma... Forse anche i nostri ascoltatori li conoscono. Forse sì. Esatto. Sempre suonato in mia vita. Quando hai iniziato a suonare? Che ti ha iniziato? La musica è grazie a mio papà. Grazie a mio papà. Perché tuo papà suonava? Sì, mio papà suonava il balafon. Che, aspetta, per i radioascoltatori che non sono tutti esperti, è una specie di silofono, giusto? Esatto. Con sotto delle zucche. Esatto. Che è uno strumento comune poi a molti paesi dell'Africa, giusto? Sì. Dal Mali, dal Burkina Faso, sì. Dal Guinea c'è un altro balafon che è più diatonica, che non c'entra niente. Però il balafon che suoniamo noi, il Mali e il Burkina Faso, è sempre pentatonica. Pentatonico anche quello. Però... la differenza è quale? È sempre la lingua che parlo io. Allora, si guarda il mio balafon, l'altro vicino sa che questo balafon è il balafon di Bobo. Perché io sono un'etnia, Mali si chiama Bobo. Ok, poi c'è tanti etnia dove vengo anche il balafon. E quindi però ogni la differenza etnia ha il suo balafon particolare. Esatto, sì. Con il suo suono. Sì, esatto, anche la tonalità. Ah. Anche in maniera di suonare, anche diverso. Sì, proprio lo stile anche di suonarlo. Comunque. Esatto, sì, sì. E quindi tuo papà suonava il balafon? Mio papà suonava il balafon, la musica è proprio qualcosa a casa mia, è come cultura. Mm-hmm. Quindi tuo papà era proprio musicista professionista? Sì, sì. Sì. Lo chiamavano a suonare? Sì, anche tutta la famiglia fa anche la musica. Anche la tua famiglia? Cioè, tutti. Quindi proprio la tua famiglia è una famiglia di musicisti? Sì. Cioè, viviamo con questo. Beh, dalla città grande. Però quello che volevo dire è proprio da generazioni, cioè è un qualcosa che è proprio, come dire, cioè, lo portate, la tua famiglia di padre in figlio ve lo siete tramandati. Esatto, sì, sì. Allora se oggi suona tante roba è grazie certo. A mio papà, certo. Che me l'ha passato, oggi non c'è, però c'è. Beh, diciamo, certo, rimane in quello che, sì, che esatto. Stai facendo. Esatto. E però tra tutti questi strumenti hai scelto proprio questo strumento? Sì, sono tanti strumenti diversi. La base, io sono il batterista, suono la batteria. Ah, quindi il tuo strumento principale sarebbe proprio la batteria? Sì. Ha fatto 5, 6, 7 anni era la batterista dell'Orchestra Nazionale Mali, per 5-6 anni, 7 anni. E lì mi vedevano l'artista più, diciamo, Mali più famoso, che passa lì, guarda la prova, e poi da lì tutti mi chiedono, certo, no, suonare la batteria, suonare la batteria, e piano piano sono andata via dell'Orchestra Nazionale Mali. Ecco qua. E poi hai iniziato a suonare più spesso invece questo strumento. Esatto, anche il percussioni, djembe, dundun, congas, tamango, ni, batteria, tante roba. La musica cubana, lo suona anche questi. Certo. E tante roba. E io ti chiederei di fare adesso un brano dal vivo con questo strumento, così poi appunto possiamo sentirlo nella sua, da solo, quindi nella sua particolarità, nel suo timbro. Ok, volentieri. Thank you. Khalifa Khan col Camelengoni, giusto? Sì, giusto, sì. E ha un significato particolare il nome dello strumento? Sì. Allora, Camelengoni significa Kamale, Bambara, significa giovani. Kamale. Sì. Goni, l'istrumento si chiama Goni. Perché si chiama Camelengoni? Perché è creato, il giovani hanno creato questo perché qua. È uno strumento più moderno. Sì. È moderno quanto più o meno? Ah, da un bel po'. Quindi comunque... Da tanti anni, proprio tanti anni. Perché c'è un altro Ngoni che si chiama Donsu Ngoni. Allora, Donsu Ngoni, Donsu significa la cacciatore. Sì. E questo suoniamo però per i cacciatori. Ah, ho capito. Allora lì, ci sono le battute di caccia. Esatto. Lì non è... Questo giro qua non è un giro per le bambine, diciamo 10 anni, 15 anni, non si può suonare per i cacciatori. Sì. E lì chi suona questo qua è gente più grande. Ho capito. Capito? Da, diciamo, 35 anni, 40 anni. Allora, cioè, vedi che i giovani non si può suonare questo, allora loro hanno creato un altro, sempre 6 corde, anche il Donsu Ngoni è 6 corde. Però la stessa, però più piccolino, il Donsu Ngoni e la zucca è più grande. Sì. Ok, Camelengoni la zucca è più piccolino, però è la stessa famiglia, sempre pentatonica. Ok, perciò questo si chiama Camelengoni. Ho capito. Sì. Io spero che il nostro microfono abbia captato le onde prodotte da questo strumento, perché in cuffia qua in studio era bellissimo. Poi non so con le modulazioni di frequenza cosa vi sia arrivato, gentili ascoltatori, però è un live molto bello e intenso, direi. Mi è capitato raramente. E io quasi quasi ti chiederei di fare un altro brano, poi magari mettiamo anche un brano nel disco, però visto che appunto siamo in questa atmosfera, insomma, con volentieri. Thank you. grazie Califa. Grazie a te. Molto bello. E queste queste composizioni sono pensate per l'ascolto, no? Giusto? Sì, questi sono brani che ha suonato il pentatonico, brani tradizionali del Mali, che si chiama Mbaudi. Uh-huh. Sì. E questi brani sono brani strumentali? Esatto, sì. Sì, del Mali. Ma soprattutto sono brani urbani o sono brani che vengono dalle campagne? Sono brani che vengono dai villaggi anche, che sono nati per le persone importanti, le persone che per delle le situazioni cose di cerimonia, sì, esatto, di festa, sì. No? Quindi dalle zone più rurali, non delle grandi città. Sì, Baudi è più Segu, si chiama Segu, questo è più il brano più Bambara. Sì, che il Bambara viene da Segu. Che cos'è Segu? Una città, una provincia? No, è una città. Uh-huh. Una città, proprio 4 ore di Bamako. Ho capito. Sì, sì, si chiama Segu. E lì la musica è sempre pentatonica. Uh-huh. Sì, sì. Ascolta, tornando un attimo al disco, sì. Ci sono molti ospiti, tra cui alcuni anche che sono proprio... Sono dei musicisti del Mali, vedo Mamani Keita, voce, sì. Kassoum Kone, sì. E Patuma Keita, sì. E anche Esinam Dog Batze, penso. Sì, sì, mm-hmm. Esinam, sì. E sono musicisti che stanno in Mali o che sono... Sì, Esinam è una ragazza che abbiamo lavorato insieme quando era a Bruxelles, che suona la flauta, sì. E lei era un passato così a Bologna, era a casa mia, uh-huh. E io le dico guarda, domani andiamo a lavorare, andiamo, ti butta lì, fa qualcosa, che e così è venuto, uh-huh. Che lei ha suonato il disco, ecco. E magari sentiamo proprio il brano dove suona anche lei, che sì. È la traccia 8, che è Gaetano si sì, chiama. Gaetano, come mai sì. Si chiama Gaetano, come Alfonsi? Sì, sì esatto, le ho dato il nome Gaetano perché Gaetano è uno che proprio, quando sono arrivato a Bologna qua, è uno proprio mi ha dato tanto mano, uh-huh. Ma ha aiutato tanto, cioè da tutto senso, ma proprio aiutato tanto. Per noi, dalla cultura, qualcuno ti ha dato mano dove cioè, non dovrebbe perdere, deve sapere che la persona che ti ha aiutato la vita è una persona molto importante per te, certo. E la vita, perché l'aiuto non è che tutti è pronto per aiutare, no, sì, soprattutto un aiuto vero, insomma, esatto, proprio cioè, per una trovare persona su cui esatto. Avere poter contare. È grazie a lui che è arrivato questo, cioè grazie a lui è nato questo CD, mm-hmm. Tutto qua poco parole, che è Bologna qua, e uno come fratello, siamo fratelli, cioè per me fratelli non serve che siamo tutti e due neri, però lui è italiano, certo. Io sono africano del Mali, però siamo fratelli. Certo. Abbiamo fatto un sacco di cose belle insieme, allora... E allora, insomma, gli dedichiamo... Perciò questo... il brano si chiama Gaetano. Gli ecco dedichiamo qua. Anche questo pezzo, insomma, proprio direttamente. Sì. E sempre da questo disco, che appunto dicevi del 2014, che si chiama Luna, giusto? Sì, Luna, sì. E ascolteremo un'altra traccia che si chiama Corodugado, sì. C'è uno strumento che si chiama Tamani. Sì, Tamani, sì. Mi racconti cos'è il Tamani? Tamani è un tamburo parlante. Ah, eccolo, è quello, eccolo, che hai lì, sì. Quindi. Che è un tamburo che si mette sotto l'ascella, giusto? Perché ci sono tutta una serie di corde intorno e quello, esatto, cambia un po'. Sì, che cioè, posso lo usare come vuoi. E si chiama Tamani, sì. E fa un gran volume. Sì, anche sì. E noi adesso lo andiamo a sentire sul disco e poi ce la farei, ci farei sentire qualcosa. Certo, da certo. Ed eccoci ancora dal vivo a Etnoshik con Khalifa Kone e stavolta abbiamo il Tamani, giusto? Tamani. Tamani, sì. Che è questo tamburo dal vivo. Sì, sì. Thank you. molto bello. Ecco. Per i radioascoltatori possiamo dire che il tamburo, questo è un piccolo tamburo che tieni, esatto, sotto l'ascella, e le altezze le cambi proprio. Esatto. Puoi modularlo col braccio. Esatto, col braccio. Sì. Esatto, sì. E invece il tamburo lo picchi con la mano destra. Anche la mano sinistra. E con la mano sinistra hai una bacchetta, giusto? Sì, una bacchetta, sì. Arcuata. Sì, sì, sì. Quindi è uno strumento che non solo si batte con le mani, ma anche con una bacchetta. Quindi avete sentito che ricchezza timbrica, insomma. Sì, sì, ha un sacco di suoni e puoi modularlo tantissimo. Esatto, sì. Che dire, Califa, noi siamo quasi arrivati alla fine del tempo che abbiamo a disposizione. Sì. E quello che ti volevamo chiedere, se appunto, se potevi dare qualche riferimento, qualche appuntamento ai nostri radioascoltatori che volessero venire a sentirti, insomma. Hai qualche concerto, data dal vivo qua intorno, Bologna o Bologna no, è sempre provincia? Nei dintorni, qua che intorno. Ne so, vicino, per esempio, che ne so, Firenze, Ferrara. Firenze, sì, 25 sono a Firenze. Ah, 25 giugno? Sì, 25 giugno sono a Firenze, poi 12 parto Belgio per una settimana in giro là, uh-huh, poi dopo torno in Italia. Ma con Salvatore, con Gaetano, con tutti? No, questo è proprio un altro progetto, che un progetto di lavoro che c'è, cioè, gente belga. Che ho capito, da tanto tempo che lavoriamo perché insieme, perché tu appunto stavi prima a Bruxelles, esatto, sì, esatto, colleghi, esatto, poi Bologna qua lavoro che Carlo Mauert, sì, Carlo Mauert, che lavoriamo 19 giugno, abbiamo, uh-huh, qualcosa da fare 19 giugno. Ti ricordi, è un concerto? Non, sì, la fine è un concerto, uh-huh, sì. Ci dovevo fare un laboratorio con i bambini, con lui, poi alla, okay, fine io dovevo fare un concertino sola. E dove fate questa cosa? Non lo so ancora, non dove. Ti ricordo. No. Ascolta, e se uno vuole seguire su... Hai qualche riferimento su internet? Per su esempio, Facebook. Quindi devono cercare Califa, sì, Cone, esatto, su Facebook, sì, e possono, sì, seguire, sì, tutti gli, esatto, appuntamenti. Sì, sì, sì. Califa, noi ti ringraziamo tantissimo e... Grazie a voi. Secondo me, per chiudere, il modo migliore è chiudere con un brano. Esatto. Dal vivo. Va bene. Ce lo fai? Ci fai un altro brano dal vivo? Come no, sì. Grazie. Grazie. Grazie di essere stato qua nei nostri studi, soprattutto. Grazie a voi. Intanto a voi. Che andiamo, è stato un piacere. In chiusura con questo brano che ci regala Califa. Insomma, oh, vi salutiamo, vi diamo appuntamento alla prossima settimana e buonanotte. Esatto.